No, mi sono resa conto che Marte e Venere sono amanti della mitologia. E in verità è la sposa ufficiale di Efesto, vero? Il più brutto di tutti, eppure il fabbro divino è quello che faceva le armi per tutti, dentro il vulcano. Adesso questa cosa la registro dal cratere più grande d'Europa, che sono Campi Flegrei. Però, e mi sembra forse il posto giusto per registrare questa cosa, sulla bellezza. Quando mi rendo conto che Marte e Venere sono amanti, mi rendo conto, è un mito, che sono due parti della stessa medaglia, come dire, il piano lato A e lato B. E mi metto a cercare e mi rendo conto che l'antecedente di Afrodite a Babilonia era Ishtar, e lei era contemporaneamente la dea dell'amore e della guerra. Quindi, come dire, risalendo il tempo, le due parti, risalendo la discendenza, le due parti, come in un ramo, in un albero, si unificano. Ed era un femminile. E poi addirittura tra i Sumeri, uguale a Inanna, era contemporaneamente la dea della bellezza e della guerra. Allora lì mi si è accesa la lampadina, perché prima di questo io avevo scritto la parola Marte. Adesso un attimo che la cerco. Prima di questo, il massimo a cui ero arrivato rispetto alla bellezza era questa. Era Marte. La M è la lettera della madre. Marte come la madre dell'arte, il dio della guerra, così dice Marte. A Babilonia Ishtar, antenata di Venere, era dea della bellezza e dea della guerra, contemporaneamente. In Grecia, Ares e Afrodite, Marte e Venere a Roma, erano amanti, le due metà della stessa mela. E il bello in italiano è la guerra in latino. Curiose e appropriate coincidenze. La bellezza ti violenta più di ogni altra esperienza. Se la guardi ti entra dagli occhi senza chiedere il permesso, e tu poi passerai la vita a desiderarla. Nell'arte della guerra il generale Sun Tzu afferma che il più grande condottiero non è colui che vince distruggendo l'avversario, ma colui che vince senza dover neppure iniziare a combattere. E questa è un'arte, l'arte della bellezza. C'è qualcosa per cui vale la pena fare la guerra? Ma la risposta più... insomma, che risposta vuoi? Puttana vigliacca! Ma devo dire che, insomma, purtroppo, anche se sembra inumana, invece credo che sia tremendamente umana. È tremendamente umana ed è data da 2000 fattori. Oggi noi pensiamo di essere al di fuori della natura, invece non è vero, e anche in natura, insomma, si vede, si fa guerra, non so, anche per chi, insomma, deve avere il possesso della femmina, per chi deve avere, e quello è, sono dei contrasti che diventano contrasti fisici. Sì, fondamentalmente l'unica che vorrei bombardare sarebbe un massimo una ragazza, diciamo. Una ragazza, una donna? Sì, noi pensiamo di essere fuori natura, e sarebbe bellissimo esserne fuori, essere, sublimare la nostra natura, ma non credo sia possibile, quindi purtroppo... non dico è necessario, perché non dovrebbe esserlo, però nella nostra natura c'è, e credo che non smetterà mai, purtroppo. Sono energie anche che potrebbe diventare energia creatrice, che potrebbe diventare, però ti metto anche un'altra cosa, cioè tutti noi, io e te compresi, non siamo mai arrivati a doverci preoccupare della nostra sopravvivenza, e quando invece c'è la sopravvivenza ad essere in dubbio, le unghie le tiri fuori proprio per un fatto proprio biologico, che non ci fai nulla, cioè tenti di salvarti o come puoi e nella maniera che puoi, e credo che lì insomma tutto questo anche... insomma, sarebbe bello riuscire a mantenere un'etica e una morale. Mio zio, amando il bricolage, una passione aveva per la bomba atomica, e senza l'università aveva un DNA da genio della tecnica. Passava tutto il giorno chiuso nel suo scantinato a fare esperimenti, e poi la sera su da noi stupefaceva tutti, raccontando che... Per fabbricare la bomba, ragazzi miei, si sa che non ci vuole niente. Per il detonatore poi un quarto d'ora e vai, se una intelligente. Riguardo poi la bomba H, quella è cosa fatta, c'è solo un difetto: il fatto che il raggio d'azione tocchi a malapena 4,5 metri. C'è qualcosa che non va, do un'occhiata e torno qua. Ovviamente se sono quelle che non si fumano, pezzino, perché in effetti non credo che la violenza mai e poi mai sia la soluzione. Le bombe, si sa, è semplicemente un commercio, quindi siamo vittime tutti di queste speculazioni politiche e a volte anche come dire, pubblicitarie. Vorrei bombardare tutti quanti, tutti, dal primo all'ultimo essere umano sulla Terra. No, allora, quando si parla di bombardamenti, io quando vedo bombardamenti e posti bombardati, io penso soltanto a una cosa. Faccio un gioco che era quello di Vauro: ritagliate il volto di questo bambino e mettete quello di vostro figlio, e non ce la faccio, non, impazzisco alla sola idea. Scoprendo che più lavorava meno concludeva e gli veniva rabbia, tornando cupo su da noi mangiava con quell'aria da leone in gabbia. 322 trenette noi ci chiedevamo ma dove le mette, finché una sera dopo un rutto, vomitando tutto, confessò così: man mano che qua giù si invecchia ci rendiamo conto che il cervello schiatta. Diciamo pure siamo seri, non è più un cervello, è una salsa sfatta. Ho perso tutta la mia vita dietro la questione della sua portata, e non mi sono reso conto che quello che conta è dove va tirata. C'è qualcosa che non va, do un'occhiata e torno qua. Sentendo questo esperimento vennero da lui capi di ogni stato. Lo zio accolse tutti quanti, anche si scusò per quello scantinato. Ma come loro furono dentro chiuse con la chiave urlando fate i bravi. Così quando la geggia esploso, livido e corroso, c'era solo lui. Porca miseria, cioè, abbiamo avuto i nomi? Andata? No, ma cioè, è che sono tutti tremendamente stronzi, no? In questa vita fanno di tutto per rendere le cose insopportabili con le regoline, con le, soprattutto al lavoro, ma poi neanche, mica solo al lavoro, e la polizia. Però poi alla fin fine, appunto, se non sta la mone, se finisco sempre col volere bene fin troppo a tutti, italiano. Quindi alla fin fine le mani le ho sempre tenute in tasca. E mi sono tenuto le mitte dentro la tasca, le tengo in tasca e prima o poi farò un'autodetonazione tremenda. Davanti a questo risultato lui non si smontò ma fece il finto tonto. In tribunale trascinato al giudice togato farfuglio convinto. Signori della corte, io lo giuro innanzi a Dio che è un fatto di coscienza. Far fuori questi pazzi è un bene tanto per il mondo quanto per la scienza. Non potendo dir di no il giurì lo condannò e dopo l'amnistiò. E il paese riconoscente lo elesse immediatamente come nostro presidente. È una domanda alla quale non so rispondere. Però l'unica cosa che mi è venuta in mente appena ho letto questa domanda, proprio fisicamente io vorrei, in una mega galattica fantasia, poter riuscire a bombardare e a sconfiggere e ad atterrare e ad ammazzare definitivamente il cancro. Io bombarderei le persone invadenti. Questa guerra non è giustificabile in nessun modo, perché l'idea alla base, l'idea che sostiene questa idea di guerra, è un costrutto di per sé fallace, finto. Bombarderai quelli che dicono cuginanza. Hai avuto un bel coraggio a rispondere così al colonnello. Perché tu che avresti fatto? È quello che mi chiedo. Avresti sparato ai soldati? A volte non si sa che cosa sia il proprio dovere. No. Qui la decisione era una sola. Dimentichi che siamo in guerra e dobbiamo vincerla. L'unità nazionale è un fatto troppo importante per rischiare di comprometterlo parlando così come hai fatto tu davanti ai soldati prima. Perché? Ho detto qualcosa che non ti va? Hai detto che al momento giusto, sì, tu ti troverai dalla loro parte. Quale parte? A fare che? A sparare contro i nostri comandi. Contro tutti i comandi, anche quelli nemici. Alza battuta zero e fuoco a volontà. No, alza battuta e fuoco a volontà. A cominciare dal comandante della nostra divisione. Ho capito. E poi? Si va avanti così, seguendo la scala gerarchica. Fino a dove? Avanti, fino alla capitale, perché è lì il quartier generale nemico. E dopo? La Terra non ha nulla di grave se non la gravità. E insomma, se riflettessimo ancora più su questa affermazione, probabilmente anche la guerra potrebbe riacquisire un altro significato. La gravità è intesa proprio come naturale collocazione tra alto e basso, tra questa forza che schiaccia, per cui è resistere ad una forza. Per cui continuo a dire, anche la guerra potrebbe avere nulla di grave senza la gravità. Potrebbe essere veramente un esercizio di presenza, ma in tutti gli scenari della quotidianità in cui la gravità scava la trincea tra un alto e un basso, un potente ed un impotente. Per cui se la guerra consente di essere di fronte ad esserci tra le distinzioni e non tra le distanze, credo che forse anche la guerra potrebbe avere il diritto ad avere un significato di pace, proprio da un punto di vista etimologico, insomma. Questo metterebbe tutti su una posizione un po' più naturale e quindi ci sarebbero minori momenti in cui c'è qualche chi che ordina ad altri chi in nome per conto dell'emergenza, per cui ci troviamo tutti nelle scene quotidiane tra un quartier generale che ordina a qualcuno che è in trincea. Accompagnati dal suono di una famiglia. posso dirti una cosa sulla base di un'esperienza di Italia? Piegare la violenza, farla diventare serva e strumento della tua ideologia, è un'azione da stupidi, da sprovveduti e da schiappe. La violenza è immensa, le idee lei le divora, i valori li travolge, li spezza. A te che parli di onore, vendetta e sicurezza, la via suprema strappa l'epidermide, getta nel lago acido dove nuota solo il platipo. Non conosce bene Placido, per chi crede di aver stretto con lei quell'accordo tacito. Nessuno si vendica equamente rispetto al torto che ha subito. Non esistono le guerre lampo, non esiste un gesto violento e inerte che sta fermo e non ritorna sotto forma di disastro. E dico questo a voi che vi fregiate di simboli che qualcuno ha trasmodato, a voi che nell'aggregazione celebrate il branco, quindi debolezza, piangendo con riservatezza sulle porte del giustificazionismo storicizzato. Sono io che vi dimostro come muore un italiano, con il fuoco negli occhi, uno solo contro voi, che siete 5 o 20, con la pia violenza che mi sussurra negli orecchi. Anche se muori, sterminali, non sono degni del mio nome, sono nemici della morte. Stai zitta, mi distrai, devo rimanere concentrato, altrimenti oltre a morire divento come loro. Quella che voglio uccidere sei tu, e per farlo mi tocca farmi massacrare dai trafugatori di antichi simboli indù, i discendenti dei coercitori che credono di aver trovato il clou in Fight Club, nella Gakure o nell'arte della guerra di Sun Tzu. Non capisci? Devo soccombere in battaglia contro questi che non sanno leggere il Signore degli Anelli. E se vinco mi suicido per non assomigliargli, per spezzare la catena di violenza che continuerebbe a inanellarsi nei miei gesti. In tutto questo, la razza e la nazione sono concetti inesistenti che si mischiano nei sangui uguali e violenti. Tu muori con me, mia dea. Tu muori con me, mia dea. Allora, io francamente sono convinto che in questa fase, se si vuole aiutare veramente chi entra in Italia e cercare di integrarli nel tessuto nazionale, io credo che sia come azione diretta che indiretta bisogna sforzarsi di evitare, a mio giudizio, argomenti che possano essere divisivi. Per non dimenticare che tu nella tua comunità di riferimento puoi avere comunità che hanno interessi diversi o contrapposti e che nella crisi siriana sono rappresentati in partiti semmai che sul terreno sono contrapposti tra di loro. Cioè, non dimenticare che dietro queste situazioni aleggia il grande scontro tra le comunità sciite e sunnite, tra le smanie imperialistiche del mondo sunnita che prima si sono evidenziate con l'ISIS e ora potrebbero aver solleticato un islamista per quanto moderato ma autoritario come Erdogan. Per cui se parliamo di questi temi noi rischiamo, a mio giudizio, di non fare un buon servizio alla causa dell'integrazione. Cioè, io credo che noi dovremmo sforzarci per quanto concerne le porte, che devono essere ben strutturate, solide e aperte naturalmente. Noi dobbiamo trovare quegli argomenti che possibilmente siano, come dire, unitivi, che favoriscano la coesione e anche l'integrazione nel tessuto nazionale, lasciandosi un po' alle spalle quelli che sono gli odi e i rancori tra le comunità. Dico questo perché io ho vissuto in Germania una stagione non felice, non bella, alla fine degli anni Ottanta, tu sai che ero in Germania da poco in quegli anni, e negli anni immediatamente successivi, quando curdi e turchi si bruciavano le rispettive case in Germania. Cioè, praticamente succedeva che un giorno scoppiava, guarda caso, un incendio in una residenza di cittadini turchi, dopo una settimana in una residenza di cittadini turchi, e così via. Facilmente tutto si risolveva con, perché poteva anche essere facile, con la xenofobia e così via. Invece in realtà poi si scoprirono tutti i fatti interni alle comunità di immigrati in Germania. Per cui io francamente credo che un'arena che dovrebbe essere un'arena aperta e di stimolo